Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia, i temi di questa giornata economico-finanziaria. Parleremo come sempre anche delle proposte che dovrebbero arrivare oggi, cerchiamo di fare un punto, anche se il vertice a Palazzo Chigi sarà alle 20.30, vertice dove i tecnici del Tesoro e del Ministero dello Sviluppo Economico faranno il punto sul cosiddetto decreto competitività e quindi quello che dovrebbe prevedere lo sconto totale delle tasse sul guadagno da capitale se investite in obbligazioni emesse da piccole e medie imprese, ma poi anche al nuovo ruolo che dovrebbero avere i fondi di capitale privato, venture capital, private equity, sull'esempio di quanto già adottato per esempio in Francia e in Gran Bretagna. Questo perché? Per favorire un passaggio della cultura anche delle imprese a una maggiore finanziarizzazione. Era stato uno dei passaggi cruciali dell'intervento del neo presidente Confindustria Boccia la settimana scorsa. Quello che le imprese devono fare: aumentare le dimensioni, quindi non pensare che le dimensioni piccole possono essere una parte l'arrivo, ma solo un passaggio, e finanziarizzare maggiormente le loro imprese. Tradotto, in un periodo in cui le banche avranno per un po' ancora difficoltà a finanziare le imprese, occorre trovare altri strumenti, la quotazione su alcuni segmenti di mercato, per esempio, non sulla borsa principale, l'utilizzo dei private equity, dei venture capital. Tutto questo il governo vorrebbe metterlo anche sotto forma di incentivo per le imprese, quindi dare delle condizioni fiscali agevolate. Di questo parleremo. Parleremo anche del Tax Day che si avvicina a metà giugno. Non è, come alcuni possono pensare, il fatto che tra pochi giorni avremo smesso di pagare in media le tasse e inizieremo a guadagnare. Sapete il famoso calcolo di quanti giorni di lavoro se ne vanno per pagare le tasse? No, questo chiaramente in chi le tasse le paga e non le evade. Il Tax Day è l'appuntamento di giugno con i pagamenti di acconti e saldi. Entreranno nelle casse dello Stato, delle regioni e dei comuni poco più di 40 miliardi di euro. Sono 5 miliardi in meno però rispetto all'anno scorso. Questo per l'effetto ancora dell'uscita dalla base imponibile dell'IRAP del costo del lavoro e poi soprattutto per lo stop delle tasse e dell'IMU, delle tasse sulla casa. Anche di questo, dicevo, parleremo. Apriremo però con quanto non siamo riusciti per motivi di tempo a coprire venerdì, ossia venerdì sera, la numero uno della Federal Reserve, Janet Yellen, dopo i dati particolarmente positivi sull'andamento dell'economia americana e anche in prospettiva su come potrebbe chiudere il PIL statunitense, ha fatto capire che insomma ci potrebbero essere le condizioni, sempre in maniera molto prudente, per un ulteriore aumento dei tassi di interesse. Questo nel giorno in cui, lo dico, il Tesoro italiano, quanto a tassi di interesse, ha fatto il pieno all'asta di BTP a 5 e 10 anni con rendimenti in calo. Ha collocato il Tesoro 5 miliardi e 500 milioni di euro di titoli e 2 miliardi di CCT. La domanda sul decennale era in rialzo, 1,36 volte l'offerta, e anche la domanda del BTP a 5 anni è risultata in rialzo, 1,5 volte l'importo. Devo dire che appunto il rendimento medio è sceso dallo 0,49 allo 0,40% per i BTP a 5 anni, cioè per prestare soldi allo Stato italiano e riaverli dopo 5 anni, se uno vuole andare a scadenza, ci si accontenta sul mercato di uno 0,40% di interesse all'anno lordo. E anche sul BTP a 10 anni è sceso dall'1,51% il rendimento all'1,42%. Anche qui, per prestare soldi allo Stato italiano a 10 anni, ci si accontenta di un 1,42% lordo di guadagno sul capitale prestato. 349-238-6666 per i vostri sms e la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. 349-238-6666 è anche il numero per WhatsApp. Faccio notare che nella seconda parte del programma ci occuperemo da un lato del Consiglio di Amministrazione di Veneto Banca, che deve dove oggi arriverà l'offerta che abbiamo commentato venerdì scorso, quella al prezzo minimo, modello popolare di Vicenza, 0,1 euro, 10 centesimi di euro. E parleremo però anche di un altro elemento, sia il tema delle pensioni, perché oggi l'INPS ha diffuso alcuni dati su come sono distribuite le pensioni, soprattutto degli ex dipendenti pubblici, per categoria e classi di importo. Dico subito che sotto i 1.000 euro sono il 18% degli assegni ai dipendenti pubblici dell'INPS, poi c'è un 51% che viaggia tra dipendenti pubblici, pensioni dell'INPS, date ai dipendenti pubblici, c'è un 51% che viaggia tra i 1.000 e i 1.999 euro, il 22% ha un importo pensionistico tra i 2.000 e i 3.000 euro e il 7,8% ha un importo da 3.000 euro mensili lordi, chiaramente in su. Per questo poi ci saranno anche altri elementi, perché l'INPS ha scorporato anche in base alle categorie e all'area geografica. Faccio un esempio: quasi il 59% dei trattamenti pensionistici è dato a donne e il 39% degli importi è erogato al nord. Questa è la notizia di cui ci occuperemo, andiamo su quella in breve, partendo proprio dalla borsa. Allora, sul petrolio, mentre continua a essere vicino ai 50 dollari al barile, leggermente in calo oggi a 49,8 il Brent, a 49,2 il WTI, oggi il Financial Times fa il calcolo di quanto è costato, quanto a debito, il calo del prezzo del petrolio per i giganti petroliferi. A fine marzo il debito netto delle prime 15 società petrolifere americane ed europee è volato a 383 miliardi di dollari, quindi 100 miliardi in più rispetto allo stesso periodo del 2015. Come sappiamo, anche la nostra Eni non fa eccezione. Dicevo delle borse. Allora, questa mattina buona la chiusura di Tokyo, più 1,40%, ma soprattutto l'indice Nikkei per la prima volta ha superato quota 17.000 punti, 230 punti. Lo yen continua a indebolirsi nei confronti del dollaro, e questo è collegato al primo tema che avremo in apertura, e quindi cosa farà la Federal Reserve sui tassi di interesse. Le borse però americane e britanniche oggi non faranno da riferimento, nel senso che sono chiuse per il Memorial Day, quindi le variazioni percentuali le avremo sulle altre borse. Parigi più 0,28%, Francoforte più 0,45%, Londra e Stati Uniti chiuse, dicevamo. Per quello che riguarda Milano, il rialzo di mezzo punto percentuale, in evidenza A2A più 2,60%, Fiat Chrysler più 2,5%, Poste Italiane più 1,90, Anima pure, Anima Holding più 1,90, Monte dei Paschi più 1,70 come Azimut e Ferrari, Pop Emilia Romagna più 1%. Peggior titolo, ma i cali oggi sono abbastanza contenuti: Leonardo Finmeccanica meno 1,56, CNH Industrial meno 0,60, Mediobanca meno 0,55%. Le altre notizie in breve: se in Germania a sorpresa risale l'inflazione a tre giorni dalla riunione della Banca Centrale Europea, l'indice dei prezzi in Germania ha fatto più 0,4% sul mese precedente, è ancora in calo dello 0,3% su base annua, però anche qui le stime sono preliminari. Renzi oggi nella sua newsletter ha detto che dopo il vertice del G7 che si è tenuto in Giappone, ormai quasi tutti, sarebbe interessante capire chi non lo è, ma insomma quasi tutti sono d'accordo nel dare stimoli fiscali. La stragrande maggioranza ormai condivide la necessità di insistere su stimoli fiscali e non solo monetari per far ripartire l'economia. Non solo monetari cosa vuol dire? Non solo la BCE nel caso d'Europa, non solo i tassi a zero e le garanzie su banche e su liquidità, ma anche stimoli fiscali, che non vuol dire solo di tasse, ma dal punto di vista anche di conti pubblici, stimoli di investimenti pubblici o comunque erogazione di soldi pubblici anche per politiche sulle tasse. Andiamo avanti. Per quello che riguarda invece l'Italia, oggi i prezzi alla produzione industriale hanno segnato un calo ad aprile del 4% rispetto all'aprile del 2015. È il calo anno su anno nei prezzi alla produzione più forte da oltre 6 anni, dall'ottobre del 2009, quando eravamo ancora nel pieno, diciamo, della frenata dell'economia su base mondiale. Il contributo negativo maggiore però avviene, qui c'è il tema del prezzo del petrolio, dal comparto energetico. Sul mercato estero invece viene dai beni intermedi. Nel frattempo il Centro Studi Confindustria oggi ha dato un'anticipazione di quello che dovrebbe essere il dato sulla produzione industriale a maggio, più 0,3% rispetto ad aprile. E al netto delle giornate lavorative è un più 1,5% di produzione industriale a maggio rispetto a maggio del 2015. Ne parleremo anche più avanti, anche perché oggi il presidente di Confindustria Boccia, intervenuto a Busto Arsizio a Varese, adesso interverrà all'assemblea degli industriali di Cuneo. Ha detto che, insomma, Confindustria prima dell'estate intende presentare un progetto di politica industriale condiviso con tutto il sistema di Confindustria. Ha ribadito l'apprezzamento per il ministro dello sviluppo economico Carlo Calenda quando ha detto, nel corso dell'assemblea di Confindustria, ha riconosciuto: non siamo dove vorremmo e potremmo essere. Poi ha aggiunto Boccia: Confindustria per prima deve assumersi le responsabilità di supportare le associazioni territoriali e proporre al governo soluzioni efficaci. Ancora due notizie prima del tema di apertura, riguardano i voucher. Allora, i voucher sono uno strumento, i voucher per i lavori, uno strumento assolutamente utile se però non viene abusato, come invece purtroppo è successo, o meglio, più che essere abusato lo strumento, viene utilizzato male e in maniera illecita, perché non può nascondere, non può diventare il paravento per lavori, diciamo, che altrimenti dovrebbero essere lavori a tempo indeterminato, comunque con contratti diversi dal voucher e della somministrazione di ore lavorate attraverso il voucher. Allora, nel primo decreto correttivo del Jobs Act vi sarà proprio una stretta sui voucher, i cosiddetti buoni lavoro. Valgono ognuno, ricordo, 10 euro per retribuire del lavoro provvisorio. 115 milioni di voucher venduti nel 2015 saranno a questo punto resi tracciabili, con l'obbligo di inviare un sms o un'email entro 60 minuti dall'inizio della prestazione lavorativa e comunicando tutte le informazioni dettagliate: nome, codice fiscale, luogo e data, con violazioni che costerebbero dai 400 ai 2400 euro. Dovrebbe esserci nel testo di non riforma ma di integrazione del Jobs Act, correttivo lo chiama il governo del Jobs Act, anche una novità sui contratti di solidarietà difensiva che, se in corso da almeno 12 mesi o stipulati prima del 2016, potranno essere trasformati in contratti di solidarietà espansiva. Su questo sentiamo i 100 secondi, visto che il Consiglio dei Ministri su questi temi si terrà domani alle 17, i 100 secondi di Radio 24 Sole 24 Ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono, oggi a firma del vice direttore del Sole 24 Ore, Salvatore Padula. I 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore, con Salvatore Padula. Domani il Consiglio dei Ministri approverà il decreto con le misure per evitare l'utilizzo improprio dei voucher lavoro. I voucher sono i buoni con valore nominale di 10 euro per il pagamento del lavoro accessorio, che possono essere utilizzati entro il limite massimo di 7.000 euro all'anno per ciascun lavoratore, con un tetto di 2.000 euro per ogni datore di lavoro. L'agricoltura ha le regole leggermente diverse. Il problema è che l'uso dei voucher è cresciuto quest'anno in modo esponenziale, con incrementi anche del 50-60% rispetto al 2015, addirittura dell'80-90% rispetto all'anno prima. Questi numeri stanno alimentando il sospetto, come sostiene il sindacato, che l'utilizzo dei buoni lavoro sia diventato un modo per mascherare rapporti di lavoro subordinato, quindi un modo per dare una parvenza di legalità a un lavoro che invece è in realtà sommerso. Ora il governo governo cerca di correre ai ripari. Peraltro qualche giorno fa anche il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha avuto parole dure contro il lavoro sommerso, contro le illegalità, come l'utilizzo improprio dei voucher. Il rimedio sarà la tracciabilità dei voucher attraverso l'obbligo per il datore di lavoro di comunicare con un SMS o via mail all'ispettorato del lavoro i dati del lavoratore, il luogo dove si svolge la prestazione, almeno 60 minuti prima dell'inizio della prestazione stessa. Vedremo se questo meccanismo funzionerà, saranno previste pesanti sanzioni per chi non si adegua, ma il tema vero è che si dovranno fare più controlli per scovare l'illegalità. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Ancora due notizie. Il Centro Studi Promotor oggi segnala un dato su cui dovrebbero riflettere sia appunto i nostri governanti ma anche gli imprenditori. Perché lo dico? Perché è un altro dato che va nella linea che è vero che la crisi c'è stata in tutta l'area euro e le politiche sbagliate le abbiamo raccontate in questi anni, però c'è un calo della produttività italiana che veniva sottolineato anche nella relazione del Presidente Confindustria Boccia, che va al di là della semplice crisi o delle mancate politiche per la crescita dell'Unione Europea. È un dato che si evince anche da come è cambiato il nostro PIL pro capite. Allora, noi siamo l'unico paese tra quelli che erano nel gruppo dei paesi sopra la media europea a essere sceso nel gruppo dei paesi sotto la media europea. Il PIL pro capite dal 2001, ecco perché dico attenzione, non stiamo parlando solo dal 2009 e 2008 in poi, dal 2001 è cresciuto del 25% in Germania, del 29% nel Regno Unito. In Francia è peggiorato ma resta sopra la media europea, cioè è passato dal 26 al 19%. In Italia lo scarto invece rispetto al periodo precedente è del 3%, ossia nel 2001 il nostro PIL pro capite in euro 2010, cioè come valuta di riferimento, era di 27.800 euro, nel 2015 a prezzi correnti era sceso a 25.500 euro, un calo dell'8,27% che ci porta nella parte bassa della media, cioè un meno 3% rispetto alla media dell'Unione Europea. Nessun altro paese dell'Unione Europea ha visto crollare o calare la produzione di PIL pro capite tra il 2001 e il 2015. E ripeto, se nel 2001 il nostro valore superava di quasi un 20% la media europea, adesso è sotto la media europea di un 3%. E questo dice lunga sull'impoverimento che c'è stato nel paese, ripeto, sicuramente dal 2008-2009, complice la prima fase della crisi internazionale, poi ci siamo beccati anche 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, però è un percorso, quello del calo della produttività e del calo del PIL pro capite, che era già iniziato nel 2001. Ultima notizia in breve, mi riferisco all'operazione con cui i fondi CVC Capital Partners hanno concordato per acquisire il 100% di Sisal Group, che è l'operatore attivo nei giochi e nei servizi di pagamento. Insomma, Sisal penso che per molti non debba essere spiegata. Rileveranno la quota, cioè il totale del capitale, dai fondi gestiti da Apax Partners per Mira e Clessidra. L'intera operazione sarà perfezionata entro settembre, ma ha un valore pari a 1 miliardo di euro. E ricordo che Sisal ha 45.000 punti vendita in Italia, 500 servizi diversi di pagamento e circa 2.000 persone come dipendenti. I fondi CVC Capital Partners hanno un'esperienza nel settore già ottenuta negli analoghi, diciamo, di Sisal in Gran Bretagna, si chiama Skybet, in Germania dove c'è Tipico, e in un altro colosso delle scommesse che è presente anche in Italia, è britannico, si chiama William Hill. Allora, 349-238-6666 per SMS e WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Partiamo dalla prima notizia: che cosa farà la Banca Centrale Americana, non tanto in attesa di sapere se vincerà Trump o la Clinton, ma visti i dati della settimana scorsa su un'economia statunitense che è andata meglio, decisamente meglio delle attese. I just hope you ain't the money, money, money, money, money. Love me, honey. You got me singing Georgia. I'll do anything for ya. I know I lost the fortune. Eh sì, perché venerdì scorso è arrivato il dato sull'economia americana nei primi tre mesi dell'anno, cresciuta dello 0,8% contro un iniziale 0,5% stimato. E c'è chi dice che a questo punto, salvo sorprese, la crescita del PIL americano sarà ampiamente superiore al 2%, 2,3%, 2,5% anche per il 2016. Da lì poi in serata la riunione della Federal Reserve e Janet Yellen ha detto, beh, insomma, attenzione, i tassi di interesse devono salire in modo graduale con cautela, questo lo sapevamo, ce l'aveva detto molte volte, ma se l'economia continuerà a migliorare, un aumento nei prossimi mesi potrebbe essere appropriato. Mario Platero, corrispondente del Sole 24 Ore degli Stati Uniti, buonasera. Buonasera, buonasera Sebastiano. Hai sentito che bella base che ti ho messo, tu sei anche un amante della musica. Ecco, grazie. La musica. Pronto? Mario? Io ci sono sempre. Ecco, adesso ti sento anch'io. Mi dicevi straordinaria? No, dico la musica straordinaria, domina come giusto che sia nei nostri programmi. Ecco. E invece provo. Quanto dominerà Janet Yellen in un periodo delicatissimo, visto che poi gli Stati Uniti, anzi, sono già in piena campagna primaria, ormai le primarie sono praticamente finite e saranno in piena campagna presidenziale. Secondo te veramente la Federal Reserve potrà operare senza, diciamo, ignorando quelli che potrebbero essere i temi anche programmatici dei due candidati, cioè Trump e Clinton? Ma guarda, io credo di sì, perché la Fed si muove in modo autonomo e tra l'altro sottolinea sempre la Yellen, come lo sottolineano gli altri governatori, che la politica monetaria ha un suo ruolo, ha una sua dinamica che è diversa da quella della politica fiscale, che peraltro secondo loro è stata poco attiva. Ma quello che è successo nelle ultime settimane, che abbiamo avuto una serie di dichiarazioni che hanno preparato il mercato. Ha cominciato William Dudley una quindicina di giorni fa con la prima dichiarazione secondo cui forse già a giugno poteva esserci un aumento dei tassi di interesse. Dopodiché la settimana scorsa ha parlato a New York, anzi sono stato a incontrarlo, Williams, che è il governatore della Fed di San Francisco, tra l'altro ha dato uno spaccato molto molto interessante di quello che sta succedendo nell'economia americana. Tu prima parlavi di produttività in Italia. Il problema produttività è un problema che si pone anche in America ed è un problema che riguarda ovviamente l'innovazione tecnologica che ancora non ha raggiunto quei suoi equilibri che consentono di avere un aumento di produttività, di produttività stabile. E comunque entrambi hanno di fatto confermato che a giugno un aumento dei tassi è possibile. Williams in particolare ha detto, ma insomma c'è qualcuno che dice ma non dovete avere fretta, cos'è questa fretta di aumentare i tassi? Ma dice veramente noi di fretta non ne abbiamo avuta, perché per 7 anni abbiamo tenuto i tassi intorno allo zero, dopodiché abbiamo detto che avremmo cominciato, abbiamo portato i tassi dallo 0,25 allo 0,50, dopodiché siamo stati fermi altri 6-7 mesi, per cui cioè, se adesso passiamo dallo 0,50 allo 0,75, dice non mi sembra che sia un grande aumento o comunque un grande cambiamento. Dunque l'aumento dei tassi è nell'aria, che sia giugno, che sia poco dopo, non lo so, però la determinante chiave, e quindi l'economia, la crescita dell'economia, è una determinante che in questo momento è rassicurante per la Fed, perché se c'è stato l'aumento di cui tu hai parlato, lo 0,8% per il primo trimestre, dallo 0,5%, insomma una crescita comunque debole, nei primi mesi del secondo trimestre, cioè aprile e maggio, abbiamo avuto dei dati intermedi al consumo, alla produzione, eccetera, piuttosto interessanti. Quindi significa che il secondo trimestre sta crescendo piuttosto bene. Per cui, alla fine di tutto questo, secondo me, l'aumento ci sarà, anzi, noi ne parlavamo già parecchio tempo fa, dovrebbe essere, secondo me, già a giugno, perché non è che cambi in modo straordinario le dinamiche del mercato, un aumento dallo 0 2,50, lo 0,75%, parliamo di tassi sempre molto bassi, poi potrà esserci una pausa naturalmente, ma intanto si procede e si comincia piano piano a preparare il mercato. L'altro elemento determinante, secondo me, perché la settimana scorsa, nonostante questa idea degli aumenti dei tassi di interesse, la borsa è aumentata piuttosto bene, circa il 2-2,5%. Sì, è per quello la che volevo chiederti, esatto. Perché? Perché il petrolio è aumentato, ha raggiunto la soglia di 50 dollari, quindi si è avuta, come dire, la prospettiva, l'idea che l'economia mondiale magari comincia un pochettino a riprendersi, o comunque ha interrotto quella fase di debolezza cronica in cui l'abbiamo vista per una buona parte dei mesi scorsi, e dunque il petrolio è piuttosto l'elemento da tenere presente e sotto osservazione in relazione alla borsa, piuttosto che i tassi di interesse. In tutto questo tu, insomma, hai detto sostanzialmente, è vero, la Yellen ha usato una politica assolutamente morbida, morbidissima, sono gli aumenti di tassi più annunciati forse nella storia dell'economia, proprio per non spaventare i mercati che avevano reagito male l'anno scorso alle prime avvisaglie di una Federal Reserve che iniziava a cambiare rotta e a smetterla con il denaro a costo zero e iniziando a portarlo a un costo ancora bassissimo, ma a iniziare a rialzare i tassi di interesse. Se ho ben capito il tuo ragionamento, tu dici adesso, insomma, il fatto che da un lato l'economia americana stia procedendo meglio di quanto atteso, l'aggiunta che la borsa non ha reagito male questa volta, oggi è chiusa quella americana, ma insomma non ha reagito male la settimana scorsa quando è tornato a circolare l'ipotesi che la Yellen avrebbe dato un altro aumento dei tassi, tutto questo potrebbe far spingere verso un rialzo abbastanza tranquillo. Se ho ben capito, Mario, tu dici già prima dell'estate a questo punto? Ma io credo di sì, o comunque durante l'estate, insomma, un paio di riunioni. Prima di settembre, diciamo, una cosa. Sì, esatto, ecco. Non possono, perché sennò come al solito parlano e poi parlano a vuoto, dunque perdono credibilità. Invece in questo caso già tre governatori, l'ultima è stata la Yellen, non ha voluto dire lo faremo a giugno perché aspetta altri dati, però la prima riunione utile sarà appunto quella di giugno. E dunque io credo che se non lo fanno a giugno lo faranno alla riunione successiva, che sarà 6 settimane dopo. A meno che non ci sia un crollo improvviso o dell'economia oppure delle borse, perché preoccupa naturalmente l'andamento anche dei mercati internazionali. Se dovesse esserci un improvviso crollo dei mercati, la Fed Fed questo sta più, Mario, io mi sono un po' distratto forse, però ed è vero che la campagna era sulle primarie, quindi all'interno di ogni partito, poi adesso sarà diverso vedere la vera campagna presidenziale, Trump contro Clinton, però mi sembra di aver visto giustamente anche molti temi di carattere sociale, immigrazione, ruolo degli Stati Uniti, politica estera, meno temi sull'economia, al di là di qualche sparata di Trump. Ecco, sull'atteggiamento che la Fed dovrebbe avere nei confronti dell'economia americana, tu noti già delle differenze tra la Clinton e Trump? Ma guarda, in questo momento né l'uno né l'altro hanno preso delle posizioni radicali nei confronti della Fed, anzi, per ciò che riguarda la Clinton sappiamo che non cambierà la linea di fondo, c'è un'assoluta autonomia della Fed. Trump credo che si staccherà dall'ortodossia repubblicana, che invece vorrebbe una Fed più sotto controllo del Congresso, cosa che sarebbe, come puoi immaginare, disastrosa. Però l'attenzione in questo momento non è su cosa fa la Fed, che diventa un argomento un po' per addetti ai lavori, ma è sulla qualità dei posti di lavoro americani e sui salari e sulla classe media che non riesce a star bene come stava prima. Una delle cose che mi ha colpito è stata la nomina di Hillary Clinton del marito. Ha detto: se io diventerò presidente, mio marito Bill Clinton sarà lo zar per l'economia. Perché? Perché da una parte Bill Clinton ha presieduto al periodo, direi, di maggior sfulgore economico per l'economia americana. È stato un periodo di straordinario rinascimento con la rivoluzione internet, un aumento di 23 milioni di posti di lavoro. Insomma, il suo periodo è stato straordinario, un'eredità, tra l'altro, diciamolo, è a radici lontane, che partiva poi con la Reaganomics e quei cambiamenti strutturali più sull'economia di mercato che sull'economia di Stato, tra virgolette. Ecco, per cui è su quello che c'è l'attenzione. Bill Clinton dovrebbe aiutare Hillary su quel fronte, ma soprattutto dovrebbe dare sicurezza al cosiddetto blue collar, al lavoratore bianco, che si sente in questo momento diseredato, certo. Non ha più i posti di lavoro, non vive più bene come viveva prima, i suoi posti di lavoro li prendono i messicani che vengono sì, in... E attenzione che il blue collar è anche un elettore di Trump, nel senso che abbiamo visto da varie analisi. Esatto, quindi la battaglia è su quello, siccome Trump è riuscito a conquistare una buona parte di questi blue collar, ecco che allora Hillary Clinton schiera Bill, che dovrebbe essere un po' il contraltare a Trump ed essere lui a fare un po' il predicatore con questi blue collar, lui sì, un, colletti uomo blu, della come cantà, si chiamano? Un uomo. Certo. Come? No, dico i colletti blu italiani, perché sono colletti bianchi, colletti blu, diciamo, colletti blu, sì, blue collar, diciamo gli operai, i lavoratori. Certo, su questo va detto che io sono d'accordo con te, perché Clinton obiettivamente fu il presidente di un'America in totale espansione e seppe anche gestire anche sulla politica estera. Un grosso errore lo fece, ti saluto su questo. Beh, il far venire meno il Glass-Steagall Act, quella legge che separava, diciamo, la banca d'affari dalla banca che faceva invece prestiti alla clientela, da lì poi mise le basi per la più grande bolla speculativa finanziaria che poi esplose nel 2008. Questo gli va riconosciuto come grosso errore, almeno secondo me. Grazie intanto a Mario Platero, andiamo su meteo, pubblicità e poi la borsa. State ascoltando un programma offerto da... Vicinissima e amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Focus Economia. minuti, andiamo sulla borsa. Oggi giornata, vuoi perché è chiusa Wall Street, è chiusa anche la City, è chiusa anche Londra, ma insomma giornata priva di grandissimi spunti. Milano più 0,60, il FTSE MIB chiude a 18.291 punti, Parigi sulla stessa linea più 0,32 e ancora Francoforte più 0,46%, euro su dollaro a quota 1,11. Possiamo andare abbastanza rapidi. Oggi si festeggiava il Memorial Day, si ricordava, festeggiare è del tutto improprio, si ricordava il Memorial Day. Leonardo Finmeccanica, peggior titolo, meno 1,56%. Qui c'è l'ipotesi molto concreta che il gruppo Finmeccanica entra nella blacklist indiana. Torniamo indietro allo scandalo delle tangenti pagate nella fornitura di elicotteri da parte di Augusta Western all'aeronautica militare indiana, e su questo il titolo perde perché il governo indiano ha deciso, se ho ben capito, di annullare tutte le gare vinte da Finmeccanica per il materiale destinato alle sue forze armate. Andrea Fontana, buonasera. Andrea? Sì, ti sento. Bene, anch'io. Okay, adesso sì, ok, perfetto. Houston, Finmeccanica. Sì, esattamente come tu indicavi, l'indiscrezione, anzi una dichiarazione del ministro della difesa indiana riguarda l'inserimento del gruppo italiano in questa blacklist, con l'annullamento delle gare in corso che vedevano impegnate in commesse Leonardo Finmeccanica per materiale destinato alle forze armate indiane. Leonardo Finmeccanica è sotto inchiesta in India per lo scandalo tangenti. L'India è il quarto paese al mondo per le spese di difesa. È naturale che la reazione del titolo sia stata negativa. Oggi è stato il peggiore, ha perso l'1,5%, è stato il peggiore per tutta la seduta. Eh sì. Ancora, per quello che riguarda i titoli, devo dire banche oggi poco mosse. UbiBanca meno 0,60, Telecom meno 0,57%. CNH meno 0,30%, invece tra chi ha guadagnato? Fiat Chrysler più 2,80, Fiat. Sì, Fiat si tratta di un riscatto dopo un paio di sedute in flessione. Il tema è quello del richiamo di oltre 4 milioni di veicoli negli Stati Uniti con airbag difettosi, una vicenda già nota a Fiat che aveva accantonato nel 2015 761 milioni di euro c'è da dire che gli analisti si aspettano che l'impatto di questa vicenda, per quanto ovviamente negativo per Fiat, non debba comportare ulteriori accantonamenti, quindi che sia stato in qualche modo già valutato dal mercato. Ma oggi Fiat ha beneficiato di un settore alto in Europa che è stato il migliore, l'indice europeo ha guadagnato l'1%. Ecco, altrettanto non si può dire invece per i camion. Infatti CNH, Case New Holland, ha perso come vari titoli del settore, perché qui c'è il rischio di una multa della Commissione Europea alle società produttrici di camion. Prego. Financial Times ha indicato che potrebbe arrivare a breve una multa alla Commissione Europea proprio per un presunto cartello sui prezzi nel periodo 1997-2011 che riguarderebbe i principali marchi di case costruttrici di camion, quindi anche Daimler, Iveco appunto, che fa parte del gruppo CNH, Industrial, Scania, Volvo, Volvo Renault. Chiaramente è una notizia negativa. Il CNH aveva già accantonato nel primo trimestre per l'eventuale sanzione $500 milioni. Ancora tra i titoli segnalo A2A Bene più 2,5, Poste Italiane più 2,15, Monte dei Paschi più 2, Azimut pure, Anima Holding più 1,80, Ferrari più 1,60, Luxottica più 1%, come la Popolare Emilia Romagna. Vorrei un commento su Poste, poi andiamo sui migliori e peggiori. Beh, un buon rialzo di Poste, perché è atteso, è in programma domani un consiglio dei ministri ed è atteso, non c'è ancora l'ufficialità, ma che nel consiglio dei ministri si possa parlare, se non anche deliberare, del possibile collocamento di una seconda tranche di titoli Poste dopo quella della quotazione avvenuta a ottobre da parte del Tesoro. Quindi il Tesoro dovrebbe collocare un ulteriore 30%, da un certo punto di vista una notizia diciamo che potrebbe essere presa male dal mercato, perché ci si aspetta quindi l'arrivo di nuova carta sul mercato, di nuovi titoli che farebbero scendere il titolo, ma la notizia è già stata circola delle indiscrezioni ormai da qualche settimana, e soprattutto i fondi internazionali vedono bene un titolo e una società con il capitale così aperto, diciamo quasi vicina alla public company, anche se il controllo resterebbe della CDP, ma soprattutto molto liquido, che farebbe bene al titolo, secondo ovviamente gli operatori. Allora, migliori e peggiori in assoluto, dicevo, Bialetti più 16, PRL più 15, Invest più 10%, fronte opposto, Agronomia meno 4,60, Seat meno 4, Gala meno 3,70, Lazio pure, e Leone Film Group perde anch'essa al 3,70%. 349-238-6666 per SMS, WhatsApp, la pagina di Focus Economia sul sito di Radio 24. Grazie Andrea Fontana, traffico. Focus Economia. Allora, chiuso con la borsa, andiamo sugli altri temi di questa puntata. Dicevo che oggi, domani, vi sarà un Consiglio dei Ministri importante sul Jobs Act, però non è l'unico Consiglio dei Ministri importante, perché non è l'unico appuntamento governativo importante di queste 24 ore, perché alle 20:30 vi sarà un vertice a Palazzo Chigi dove i tecnici del Tesoro, del Ministero dello Sviluppo Economico e poi la struttura economica del Presidente del Consiglio faranno il punto sul cosiddetto decreto competitività. Apparentemente è il secondo round del progetto Finanza per la Crescita. Dico apparentemente perché per ora di Finanza per la Crescita se ne è vista pochina, ma il tema è particolarmente attuale dopo l'intervento anche autocritico del neo Presidente del Consiglio Staboccia, quando ha detto anche noi imprenditori dobbiamo cambiare testa, chi non l'avesse già fatto, sia sulle dimensioni, basta dire che piccolo è bello, piccolo può essere una tappa della tua vita di impresa ma non può essere la meta finale, e anche sulla finanziarizzazione delle nostre imprese. Quindi se uno non riesce ad avere capitale dalle banche esistono altri canali, il nanismo di impresa è anche un nanismo finanziario. Vorrei capire da Carmine Fottina del Sole 24 Ore, buonasera Carmine. Buonasera. Che cosa dovrebbe uscire da questo incontro per la parte appunto del decreto competitività? Perché stando alle intenzioni c'è molta, molta carne al fuoco, addirittura lo sconto totale delle tasse sul guadagno da capitale per chi investe in obbligazioni emesse da piccole e medie imprese, cioè se tu l'investimento non lo fai su bot o sulle azioni, ma lo fai su un'obbligazione di una piccola e media impresa, su un prestito, non ci paghi le tasse sopra. E poi anche venture capital e private equity, quindi fondi privati. Carmine? Sì, il vertice ci dirà molte cose, perché innanzitutto si capirà se davvero si procede domani con queste misure. Anche il sottosegretario alla presidenza Nannicini poco fa ha detto che è possibile un anticipo di alcune misure già domani, altre potrebbero andare in un successivo provvedimento in una seconda fase. E domani, comunque, scusami se ti interrompo, perché domani c'è il Consiglio dei Ministri vero e proprio, quello che si occuperà anche dei voucher e quant'altro. Prego. Esatto. Quindi c'è l'ipotesi di uno spacchettamento di queste misure, o anche, diciamo, ipotesi estrema addirittura di anticipare tutto e far tutto domani. Vedremo stasera le decisioni. Nel merito, come dicevi, si tratta essenzialmente di misure per implementare il pacchetto finanza per la crescita. Quella principale costituisce, come dicevi tu, un incentivo a investire direttamente nelle aziende con lo strumento dei cosiddetti PIR, piani individuali di risparmio, mutuati dall'esperienza inglese. In pratica anche i privati potranno finanziare le imprese pagando in questo caso un'aliquota zero sul rendimento invece del 26%, questo attraverso delle società specializzate che faranno ovviamente da mediatori. E l'obiettivo ovviamente è dare maggior liquidità soprattutto alle piccole e medie imprese non quotate in borsa e sbloccare una situazione, come sappiamo, molto orientata, troppo orientata sul sistema banca. Questi investimenti sarebbero detassabili nel limite di 30.000 euro l'anno e fino a 150.000 euro cumulati, con l'impegno però a mantenere questi investimenti per almeno 5 anni. Questi sarebbero, diciamo, i due paletti di questa misura, che è comunque considerata la misura simbolo di questo pacchetto. E quella poi, infatti, prego. Sì, poi ovviamente ci sono altre opzioni allo studio. L'altra misura che i tecnici di Palazzo Chigi considerano il cuore di questo pacchetto riguarderebbe in particolare le start-up e le PMI innovative, che verrebbero anch'esse finanziate con liquidità, che arriverebbe in questo caso dalle cosiddette aziende sponsor, cioè un'azienda quotata che investe direttamente nell'equity di una startup fino a un massimo del 20%, avrebbe come beneficio fiscale la possibilità di scaricare nel suo bilancio le perdite di questa startup. È un meccanismo innovativo che secondo il governo potrebbe stimolare ulteriormente la nascita startup e PMI innovative. Oggi più o meno ne abbiamo in Italia tra 5 e 6 mila, incluse appunto le PMI innovative. L'obiettivo del governo è chiaramente accelerare notevolmente. Sì, che è un dato assolutamente al di sotto della media europea, esatto, di parecchie dato, volte. Siamo partiti pochissimi anni fa con queste misure per le startup e chiaramente siamo indietro, quindi il governo sta studiando ulteriori misure di spinta in questo settore. Se vuoi proseguire, diciamo, il menu possibile, ci sono anche misure che riguarderebbero la ricerca. Ad esempio, una che è particolarmente interessante sarebbe quella sul rientro dei cervelli. È un bonus fiscale del 30%, del 30%, sì, esattamente, che in realtà è una misura preannunciata già diversi mesi fa, ma sempre bloccata. Ora il governo potrebbe domani sbloccarla e addirittura renderla strutturale, cioè non più limitarla a 5 anni di periodo di imposta, ma renderla permanente. Certo. Allora Carmine, il grosso di quello che verrà discusso tra stasera per la parte tecnica e domani, tu l'hai detto, quindi capitali esteri, la parte del credito, la ricerca, il credito d'imposta per gli investimenti in ricerca e il rientro dei cervelli e le start-up. Vedremo quanta parte, se come ha detto Morando oggi, si riuscirà anche ad anticipare una parte di queste misure. Io ti ringrazio, vado sul GR24, poi torniamo invece a parlare purtroppo di tasse da un lato, ma dall'altro anche per quello che riguarda il Veneto Banca. Vedo molti messaggi, vedremo aggiornamenti, il Consiglio di Amministrazione è iniziato ma non vedo ancora agenzie, e dicevo è anche di il segnale orario vi è offerto da Giovanissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. State ascoltando un programma offerto da... Vivacissima e Amissima, la nuova compagnia assicurativa con quasi 100 anni di storia. Focus Economia. E 7 minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, dopo il tema del decreto competitività che vedremo, adesso stiamo anche recuperando le agenzie sull'ispezione che da quanto battono le agenzie da circa 20 minuti la Guardia di Finanza su indicazione della Consob starebbe compiendo nella sede di Mediobanca. L'oggetto sarebbe l'offerta sul gruppo Rizzoli Corriere della Sera, se abbiamo ben capito l'agenzia. Adesso vedremo altri aggiornamenti, ma dicevo, al di là del decreto competitività di domani e di quanto già definiranno stasera i tecnici dei due ministeri e della Presidenza del Consiglio, che si vedranno alle 20:30, una scadenza è abbastanza invece non in dubbio e non dubitabile, ed è quella che viene chiamato il Tax Day. Non perché sia il giorno di liberazione dalle tasse, come pensano alcuni, quello è un po' anticipato, è inizio giugno, ma perché è il giorno in cui tutto un insieme di scadenze fiscali porteranno nelle casse dello Stato poco più di 40 miliardi di euro. Gianni Trovati del Sole 24 Ore, buonasera. Buonasera a voi. Gianni, il Tax Day, un conto era il giorno della liberazione dalle tasse, che se ho ben capito quest'anno cade il 3 giugno, ho capito male, 2 giugno. Ci sono calcoli in verità diversi, alcuni, se tieni conto anche delle tasse locali e così via, si arriva anche tranquilli ad agosto come giorno di liberazione. No, questo è il giorno, come dire, di occupazione delle tasse, nel senso che entro il 16 giugno vengono a scadenza una serie infinita di scadenze, le scadenze cruciali dell'anno, diciamo, che alimentano le casse dello Stato. In gioco ci sono circa 40 miliardi di euro, come dicevi bene tu, tra i saldi di prima di tutto delle imposte dirette, cioè classicamente l'IRPEF, l'IRES e così via, poi c'è l'IRAP e gli acconti del 2016, e poi ci sono gli acconti della IMU e della TASI, quelle sulla casa, che valgono quest'anno circa 10 miliardi, di cui 8 vanno ai comuni e un paio va allo Stato. Sì, per chi la paga ancora, diciamo. Per chi la paga ancora, ma allora... Perché ho visto che complessivamente i 40 miliardi dovrebbero essere circa 5 miliardi in meno dell'anno scorso, sì, come effetto da un lato di una coda dell'uscita dalla base imponibile IRAP del costo del lavoro, Ma soprattutto dello stop alle tasse sulla prima casa, che valgono 4, qualcosa miliardi di euro, dipende dalle aliquote dei comuni. Comunque siamo poco sopra i 4 miliardi di euro. Quindi gli acconti sono un po' più leggeri per circa 20 milioni di contribuenti, perché i proprietari case sono appunto 20 milioni, più di 20 milioni, ma una quota di case già non pagava prima perché era troppo basso il suo valore fiscale. Va tenuto in considerazione che lo stop alle tasse sulla prima casa è amplissimo per quanto riguarda la platea degli interessati, cioè ha dato una buona notizia appunto a più di 20 milioni di persone, ma in termini di soldi, in termini di gettito, la grossa parte dell'IMU e un pezzettino di TASI si paga ancora, perché è quella che viene pagata da seconde case, negozi, imprese, capannoni, uffici, tutto quello che non è prima casa. Poi, se uno, e questo è importante da dire, ha una prima casa ma ha due garage, il secondo garage vale come altro immobile, quindi paga al 16 di giugno. Questo molti rischiano di dimenticarlo, e se se lo dimenticano poi c'è la sanzione. Vedo che c'è già però un po' di polemica, se ho ben capito, tra governo e commercialisti, diciamo così, quindi chi svolge attività di consulenza a contribuenti e imprese, per la richiesta di proroga dei versamenti delle imposte dirette dell'IRAP per 3.500.000 persone, sono imprese, lavoratori autonomi e così via, e con il tema degli studi di settore. Se ho ben capito, il governo in questo momento sta tenendo il punto, però, perché dice che il software con cui si compilano gli studi, si chiama Gerico, è stato diffuso prima del solito. Ma qual è il tema sullo sfondo? Perché vogliono più tempo i commercialisti? Allora, il tema sullo sfondo è, da un lato, il fatto che la richiesta di proroga con successiva, diciamo, concessione della proroga è un rito italiano che c'è tutti gli anni. La differenza è che quest'anno il governo tiene un po' il punto. È un governo un po', come dire, allergico alle proroghe, si è visto anche per i bilanci dei comuni, che di solito vengono prorogati fino a ottobre-novembre. Quest'anno con il 30 aprile si è chiuso. Il tema è, il governo vorrebbe dare all'amministrazione finanziaria in generale, alla finanza pubblica, un po' più di ordine, un po' più di ordine, passa anche dal tenere fisse le scadenze ordinarie. Per fare questo l'Agenzia delle Entrate e la SOSE hanno come dire, rilasciato prima del solito questo Gerico, che è lo strumento chiave con cui i commercialisti fanno pagare le tasse, calcolano l'imponibile, fanno pagare le tasse a tutti i soggetti agli studi di settore, sono imprese, piccole imprese, professionisti, commercianti, artigiani e così via. Il problema qual è? Che come sempre in Italia le cose stanno a metà o a tre quarti. Il software è stato dato prima, ma i suoi aggiornamenti sono continui. L'ultimo è arrivato venerdì scorso. Allora cosa succederà? Si continuerà a parlare di proroga e la risposta ce l'avremo verso il 12, 13, 14 di giugno, cioè quando saremo in vista proprio alla vigilia delle scadenze. Non so fare naturalmente una previsione, diciamo che l'idea della proroga, la chance della proroga non è del tutto esclusa, mettiamola così in modo elegante. Un'ultima domanda, visto che si parlava di IMU e di TASI, che cos'è la super TASI, cioè, quindi aliquota aggiuntiva dello 0,8 per 1000? Perché qui si rischia, per anche errore dei comuni stessi, di creare un po' di confusione. Se hai un'oretta te lo spiego bene, se hai no, meno invece... No, ho due minuti. No, ce la facciamo. Allora... IMU più TASI non potevano superare il 10,6 per 1000, tranne che per uno 0,8 per 1000 aggiuntivo che i comuni potevano mettere se proprio i conti non quadravano. Naturalmente questa era una cosa provvisoria per il primo anno, che poi è diventata mano a mano definitiva. Qual è il punto? Il punto è che per mettere questa TASI aggiuntiva quest'anno i comuni dovevano deliberarlo espressamente entro il 30 aprile. Cioè, di solito cosa succede nelle tasse locali? Se il comune non delibera nulla, valgono le aliquote dell'anno precedente. Per questa TASI aggiuntiva questa regola non c'è, per cui se il comune non delibera nulla, non valgono le regole dell'anno precedente e il comune non si può chiedere questa TASI aggiuntiva. Qual è il punto? Che c'è il rischio che alcuni comuni lo facciano lo stesso e il contribuente paghi perché, come dire, questi affascinanti segreti della fiscalità locale gli sono ignoti. Quindi bisogna controllare e far controllare dai professionisti che ci assistono, dai casi eccetera, che il comune abbia deliberato con delibera votata al Consiglio Comunale entro il 30 aprile anche per quest'anno questa aliquota aggiuntiva, se no l'aliquota aggiuntiva è illegittima. Un'ultima scadenza, perché non è quella del 16 giugno ma riguarda il 15 giugno, è quella per i proprietari dei capannoni dove la rendita era finora gonfiata dai macchinari cosiddetti imbullonati, no? Dove sì, il governo è intervenuto. Ecco, che cosa devono fare gli imprenditori, insomma, i proprietari dei capannoni entro il 15 giugno? Allora, la manovra ha detto che i macchinari, le presse, tutti i macchinari, diciamo, fissi al suolo, non devono più essere calcolati nella rendita catastale, quindi nel valore fiscale con cui si applica, si calcola l'IMU, ma per far uscire dal loro valore fiscale, quindi per abbassare il valore fiscale dei capannoni, bisogna fare una domanda specifica, si chiama procedura DOCFA, è un aggiornamento catastale. Qual è il punto? Se l'atto viene presentato entro il 15 di giugno, il macchinario, diciamo così, esce dal valore fiscale, quindi le imposte si abbassano, a valere retroattivamente dal 1 gennaio. Se invece viene presentata dopo il 15 di giugno, il valore è solo successivo, cioè le tasse fino al momento della presentazione vengono calcolate con il valore alto e solo dopo vengono calcolate col valore più basso. Per chi invece taglia il traguardo entro il 15 di giugno, lo sconto parte dal 1 di gennaio scorso. Grazie anche per la sintesi non facile, non scontata, Gianni Trovati. Traffico, e poi diamo un aggiornamento su queste ispezioni Consob in Mediobanca utilizzando la Guardia di Finanza sull'OPA, la controfferta lanciata anche da Mediobanca, Bonomi, Della Valle, Pirelli, Unipol dopo l'offerta iniziale di Urbano Cairo. E poi parliamo invece di pensioni. Smau Research to Business ti aspetta a Bologna Fiere il 9-10 giugno. www.smau.it. Vi presento Focus Economia. Allora, aggiornamenti d'agenzia. Dunque, la Consob sta effettuando un'ispezione avvalendosi appunto alla collaborazione della Guardia di Finanza e Mediobanca proprio sull'offerta pubblica d'acquisto lanciata su Rizzoli Corriere della Sera dalla cordata che comprende, oltre a Mediobanca, anche la Investi Industrial di Andrea Bonomi e poi Della Valle, Unipol 6 e Pirelli. Qual è il punto? Leggo assieme a voi le agenzie che stanno arrivando. Allora, qui si tratta della controfferta rispetto all'offerta iniziale di Cairo, che prevedeva però uno scambio azionario, mentre la controfferta prevede, diciamo così, contanti. L'intervento della Guardia di Finanza potrebbe servire a far luce anche sulle tre holding, le tre società create ad hoc da Andrea Bonomi in Lussemburgo per questa operazione. In particolare, secondo quanto risulta all'ANSA, la Commissione vorrebbe far chiarezza sul flusso di informazioni i giorni precedenti al lancio dell'offerta pubblica, alla luce delle comunicazioni effettuate da Mediobanca e dal suo amministratore delegato Alberto Nagel, che avevano negato in più occasioni un coinvolgimento diretto di Mediobanca nella partita. E quindi gli accertamenti chiesti dalla Consob, che è l'autorità di vigilanza sui mercati finanziari, puntano a chiarire se ci sono stati eventuali abusi di mercato, tenendo presente anche l'andamento dei prezzi dei titoli Rizzoli Corriere della Sera in borsa. Questo perché Mediobanca, richiesta di un'opinione dalla Consob, aveva precisato una settimana prima invece di partecipare a questa offerta che non era interessata a lanciare nessuna controfferta, ma che avrebbe valutato eventuali proposte alternative per Rizzoli Corriere della Sera solo in qualità di soggetto destinatario, cioè quello che deve poi eventualmente cedere le azioni visto che è azionista, e non in altre modalità, e aveva escluso categoricamente di poter promuovere una sua offerta alternativa. C'è una frase che viene riportata di Nagel che dice: non so dire se ci sono proposte alternative probabili, oggi c'è un'unica proposta sul tavolo che è quella di Cairo e questa va valutata, se ne arriveranno altre le valuteremo con lo stesso tipo di approccio. Non siamo noi promotori, non siamo un gruppo editoriale, va continuato il numero uno di Mediobanca, valutiamo quello che c'è man mano sul tavolo, quello che ci viene offerta. E invece poi una settimana dopo è arrivata un'offerta, una controfferta, che tra i soci della cordata aveva, oltre che appunto Andrea Bonomi, anche la stessa Mediobanca. Nel frattempo l'offerta di questa cordata è congelata dalla Consob da venerdì scorso in attesa di integrazioni al prospetto, e una volta ricevute le informazioni potrebbe già essere pubblicata, potrebbe essere pronta a ripartire entro 15 giorni. Allora, parliamo di pensioni, perché oggi l'INPS ha fotografato una distribuzione, diciamo, delle pensioni degli ex dipendenti pubblici abbastanza dettagliata, dove emerge in primo luogo che le pensioni della parte gestione di dipendenti pubblici in vigore dal 1 gennaio di quest'anno sono 2.841.000, 66,3 miliardi l'importo complessivo, una media di 1.795 euro lordi di pensione al mese. E questo è il dato rispetto all'ultimo a un anno fa, dove c'è un incremento dello 0,8% nelle pensioni erogate e degli importi cresciuti del 2,1% rispetto appunto ai 64 miliardi dell'anno scorso. Allora, Maurizio Ferrera, professore di scienze politiche presso la Facoltà di Scienze Politiche all'Università di Milano, buonasera. Buonasera a voi. E buonasera anche a Davide Colombo del Sole 24 Ore. Davide, la prima cosa, e poi vengo a Ferrera, che ti ha colpito di questa, perché nel rapporto, visto che si parla anche della distribuzione delle pensioni nelle aree del paese, 1.000 euro per il 18%, il 51% viaggia tra i 1.000 e i 2.000 euro lordi. Davide. Ma devo dirti la verità, Sebastiano, poca sorpresa, sono dinamiche per questo aggregato di spesa abbastanza costante da qualche anno, e cioè da una decina d'anni, quando sono stati introdotti prima i tagli lineari e poi il blocco del turnover. Evidentemente si sta riducendo l'aggregato di spesa per stipendi della pubblica amministrazione e si va evidentemente via via gonfiando quello per pensioni. Teniamo conto che oltre il 55% di questi importi, di queste pensioni in vigenza, per un 40 miliardi e mezzo circa, sono pensioni o di anzianità o anticipate. Che cosa sta accadendo? Sta accadendo che ci sono grandi amministrazioni, come per esempio l'INPS, giusto per citare l'amministrazione che eroga queste pensioni, che sta viaggiando con un deflusso di personale di circa 100 addetti al mese, ha spiegato in una recente audizione parlamentare il presidente Boeri. Sappiamo che l'età media nel pubblico impiego oscilla tra il 54,5 e i 55 anni, abbiamo una pubblica amministrazione che si sta riducendo di perimetro, siamo oltre 300.000 dipendenti in meno in 8-9 anni, abbiamo circa 75.000 contrattisti in meno, cioè contratti diciamo di collaborazione, 79.000 in particolare in meno contratti di collaborazione, si sta riducendo il perimetro della PA, e questo evidentemente ha un costo, anche se un costo minore della massa stipendiale, ha un costo in termini relativamente minori sulla massa stipendiale, che va a gonfiare questa gestione del pubblico impiego, che è poi l'ex INPDAP dopo incorporazione in INPS. È una dinamica diciamo che si sta ripetendo da qualche anno e che vedremo andare avanti negli anni a venire. Le pensioni di vecchiaia nel pubblico impiego hanno già visto il sorpasso delle donne sugli uomini. Sì. Dinamica che nel settore privato vedremo solo tra il 18 e il 19 circa, e appunto c'è questo grosso zoccolo importante di anticipi e di anzianità che ancora continuano a tenere alto la quota di flusso, perché stiamo parlando di un settore per definizione out of the market, cioè carriere lunghe, continuative, con pieni contributivi garantiti, e quindi in molti casi si arriva prima al requisito dell'anticipo che non a quello della vecchiaia. Professor Ferrera, la domanda è volutamente provocatoria, ma non stiamo parlando, tra virgolette, un po' troppo di pensioni? Cioè, noi abbiamo una difficoltà oggettiva nel gestire tutti i dati che arrivano dall'INPS di settimana in settimana, le prospettive da qua al 2030, le proposte del governo e flessibilità e 80 euro e quant'altro. Non è troppo, nel senso, o è solo una confusione che registriamo noi, una confusione, diciamo, un eccesso di dati che registriamo noi? Di fatto il commento che volevo fare. Beh, cioè, è vero. Nel nostro dibattito pubblico c'è una vera e propria ossessione per il comparto delle pensioni e per le condizioni di vita degli anziani. Per carità, il tema è importantissimo, non sto dicendo che non sia importante, ma non ci sono solo gli anziani, ci sono anche i giovani e soprattutto ci sono i tantissimi minori che nel nostro paese sono in condizioni di estremo disagio, in molti casi di estrema povertà materiale, ma anche povertà diciamo educativa. E perché è importante che non si parli solo di anziani, ma che si parli anche di giovani e in particolare di minori? Perché la sostenibilità nel tempo, la sostenibilità futura, ma anche attuale per la verità, visto che siamo in un regime di ripartizione del sistema pensionistico, dipende dai tassi di occupazione e quindi dall'ampiezza delle coorti che sono attive e che hanno un posto di lavoro e che quindi con le loro tasse e i loro contributi finanziano le pensioni in pagamento. Ora, se non ci occupiamo delle condizioni dei giovani che devono entrare nel mercato del lavoro e ancora prima dei giovani che vanno a scuola, che si stanno formando, persino dei bambini. Noi abbiamo un tasso di abbandono scolastico all'interno della fascia dell'obbligo, cosa inaudita negli altri paesi europei, che solo i paesi del terzo mondo registrano. Ecco, come possiamo pensare che, numero uno, i tassi di occupazione crescano in futuro, numero due, che diciamo così ci sia una base di competenze che sia in grado di far crescere la nostra economia e di mantenerla, diciamo, alla pari o comunque in linea, certo, con altre economie europee, perché se non facciamo così non avremo la possibilità di finanziare le pensioni. È inutile che ci preoccupiamo dell'importo delle pensioni, della flessibilità in uscita, se poi non c'è la possibilità di alimentare finanziariamente queste prestazioni. Guardi, mi ricordo un po' il dibattito che si fa sul deficit, che quando si è ossessionati solo dal deficit non si tiene conto che se non cresce il PIL, qualunque deficit è troppo. Non so come dire, che non reggono i conti. Quindi noi ci occupiamo della parte di uscite, certo, esatto, non ci occupiamo della parte dell'uscita della spesa pensionistica, per carità, ma ci occupiamo molto poco di alimentare il flusso di spesa pensionistica con nuovi lavoratori. Altrimenti tu puoi ridurre, tagliare, quello che vuoi, ma il meccanismo, non dico che non regga, perché in questo momento Boeri ci dice che regge, però diciamo, ti occupi della parte tra virgolette meno virtuosa o meno importante delle gambe del tavolo. Grazie a Maurizio Ferrera da una parte, a Davide Colombo dall'altra. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Intanto da Sebastiano Barisoni le auguro di una buona serata. Radio 24, la passione si sente.